la determinazione più che prevalente, quasi unanime, io credo, di questo corteo è quella appunto che la politica, i valori, i temi sui quali la gente è venuta qui a Genova prevalgano e tornino a occupare quel posto centrale che loro compete. Scusa Piero, ti devo interrompere, abbiamo molto rapidamente al telefono Graziella Mascia della Segreteria di Rifondazione Comunista, che abbiamo al telefono per un racconto. Buongiorno Mascia. Buongiorno a voi. Che è successo, sì, dunque? È successo come è successo purtroppo in tanti momenti della giornata di ieri, e cioè che mentre la testa del corteo passava sotto questa caserma, faccio presente, siamo a Bocca d'Asso, la caserma sta in cima a una collina. Sono usciti 4-5 di questi personaggi che ieri hanno determinato tante corribande per tutta Genova, senza che la polizia mi avesse dito, se non quando questi signori si avvicinavano ai luoghi in cui c'erano i manifestanti. Allora, sono stati tirati dei sassi nella direzione della caserma, che ripeto è in cima a una collina, e immediatamente si è risposto con un lacrimogeno sulla testa del corteo. Giorgini, buongiorno. Buongiorno, sono arrivato quasi alla testa del corteo, ci sono tronconi del corteo fortemente organizzati in servizio d'ordine, tronconi del corteo militante, invece ci sono pezzi completamente liberi, completamente aperti. C'è una, nello stesso tempo, amarezza, ma anche il ritrovarsi in tanti. In questo momento dall'altra parte, verso le forze di polizia, c'è un fronteggiamento che non so a cosa porterà. Verso le forze di polizia, dove c'è la fiera, e una parte dei manifestanti, invece di seguire il corteo, sta andando là. Alcuni anche per curiosità, ne sentivo alcuni che dicevano, ma andiamo a vedere com'è questa cosa, perché hanno sentito le descrizioni della televisione, hanno sentito le radiocronache, eccetera, e vanno anche per vedere questa polizia. Altri invece vanno per il momento si tratta di slogan, uno degli slogan, come ovvio, più urlati è assassini, assassini, Berlusconi assassino, alcuni sono Carlo sarai vendicato. Io sono esattamente lì in quel gruppo che descriveva Giorgini prima. Dunque, il corteo doveva svoltare dal mare verso Corso Torino e andare all'interno all'altezza di una piazza, uno slargo, Piazza Rossetti. A questo punto un gruppo di circa 100-150 persone si è spaccato, ha fatto Corso Marconi, quindi ha proseguito lungo il mare dirigendosi appunto verso la polizia. Un gruppo dei manifestanti è andato a contattarli per cercare di farli tornare indietro. A questo punto stanno camminando lentamente in ordine sparso, qualcuno ha il fazzoletto sulla bocca, però camminano molto lenti, qualcuno anche delle bandiere in mano, e si avvicinano piano piano allo schieramento, sì, della polizia. Ecco, è partita la prima carica di i primi lacrimogeni, qualche canzettrino, continuano a sparare i lacrimogeni, però sono pochi ragazzi e sparsi. Continua il lancio, ancora siamo proprio all'altezza dei container che chiudono il lato verso la sede delle forze di polizia. Il lancio dei lacrimogeni continua. È arrivato un lacrimogeno da questo lato e quindi mi sposto, non riesco da questa posizione a raccontarvi meglio quello che succede, però la piazza a questo punto sembra svuotata. Gli ultimi ragazzi si spostano e ritornano verso, diciamo, la zona del corteo. La testa ha girato, ma da un po' in Corso Torino. La polizia è molto lontana, almeno sui lati è molto lontana. Abbiamo passato due strade laterali in cui bloccate dai container, e dietro ai container si vedeva in prospettiva uno schieramento di poliziotti con i caschi e con gli scudi. A un certo punto, diciamo più o meno un quarto d'ora fa, si è ricompattato il servizio d'ordine che ha stretto le fila. Ecco, adesso stanno ricominciando ad avanzare, sono di più sono un centinaio, magliette nere, zaino in spalla, qualche cesci al collo, berrettini neri. Ci sono anche persone della manifestazione che stanno andando a vedere cosa sta succedendo, cioè non vedo, sì, ecco, vedo adesso una spranga in mano a un ragazzo con il casco nero. Arrivano anche un po' di bandiere di rifondazione, ma a questo punto sono tutti con il casco. Arrivano da dietro con caschi e si stanno coprendo il viso. Io direi che siamo sui 200 approssimativamente. In questo momento ricomincia il lancio dei lacrimogeni e i ragazzi stanno cercando una via di fuga entrando all'interno della cancellata che ospita appunto il Genoa Social Forum nel piazzale. Una pietra che parte da questa parte. Ci spostiamo un attimo, però la polizia non si muove. Ecco, è arrivato un candelotto. Il candelotto è stato diretto all'interno della cancellata ospita i tendoni del Genoa Social Forum. A questo punto la polizia avanza, si sposta, si aspetta l'ingresso all'interno dell'area del Genoa Social Forum e la gente scappa verso Punta Vagno. La polizia non è entrata, diciamo che ha lanciato lacrimogeni all'interno, vado da sgomberare il piazzale. L'ipotesi è che appunto il corteo possa essersi diviso in due e che le persone che descriveva Lucia Manassi prima stessero in realtà tentando di evitare questa divisione in due del corteo. Angelo Miotto ci segnala che circa ogni chilometro, chilometro e mezzo, ci sono dei piccoli gruppi di persone mascherati e con dei bastoni e che sono fermi ai lati del corteo e del percorso che il corteo fa.